ciò che non c'è. Ma son sicuro tutto questo vi annoia. Vabbè, non c'è problema, c'è Jenny la Troia. Jenny la Troia è una bambola che ti fa scordare ogni perché. Jenny la Troia è una bambola in più, lei ti fa fare milioni di view. Jenny la Troia è una bambola che ti fa scordare ogni perché. Jenny la Troia è una bambola in più, lei ti fa fare milioni di view. Acquista il bambolotto di Jenny la Troia, se tiri la cordicella del Tampax, fa il verso originale. Ah, ma è tutta snodabile e puoi farla ballare anche con Jimmy lo storpio. Il popolo del web si aspetta che io muoia, un altro cerca la morale ma prima ingoia questo concetto di Jenny la Troia. Jenny la Troia è una bambola che ti fa scordare ogni perché. Jenny la Troia è una bambola in più, lei ti fa fare milioni di view. Mentre l'utente medio fa io, io, Jenny gioca a far la troia. Mentre l'utente medio fa io, io, Jenny gioca a far la troia. Vorrei invitarvi a mangiare la soia, vorrei invitarvi a tirare le cuoia, vorrei provare a far la parte del boia per questo pubblico che spesso si annoia. Vabbè, male che vada, c'è Jenny la Troia. Jenny la Troia è una bambola che ti fa scordare ogni perché. Jenny la Troia è una bambola in più, lei ti fa fare milioni di view. Il popolo del web si aspetta che io muoia, un altro cerca la morale ma prima ingoia questo concetto di Jenny la Troia.